ero terrorizzato dall'impressione che l'avrebbe fatto. Sapete come sono le mamme, no? Un po' come i papà per le figlie femmine. Ogni fidanzato è un porco e un farabutto. Per mia madre ogni possibile mia compagna era sempre stata o una ragazzina o una vecchia carampana. Non ci sono mai state via di mezzo. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È la vigilia di Natale. Sono le 16.06. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia. E sono qui. È che te ne accorgi sempre dopo. Quando tutto è successo. O quando lo hai fatto succedere. Ti guardi intorno e dici: ma io non ero pronto. Non ero pronto per aspettare un bambino. Non ero pronto per rimanere da solo. Per essere licenziato. Non ero pronto per trovarmi in una città diversa. Insomma, semplicemente non ero pronto. E questa cosa ti stupisce. Ti stupisce come ti stupiscono tutte le cose che accadono senza preavviso. Ecco che cos'è. È il preavviso che ti frega. È quel messaggio che arriva prima di cena, che annuncia che lui sta tornando, oppure che lei è in ritardo, che non ce la fa venire perché piove, perché c'è la neve, perché non ti ama più. È la mail di conferma. È il messaggio sulla porta che il corriere è passato e non ci ha trovato in casa. Sono i primi fiori gialli che ci avvisano che forse l'inverno sta finendo. Tutti i segni che ci dicono con anticipo che qualcosa sta per accadere ci disabituano alla sorpresa. E allora noi cerchiamo di esorcizzarla, la sorpresa, facendo piani. Facciamo piani per tutto, per la partenza, per il ritorno. Facciamo piani per il matrimonio, per le dimissioni, per la casa e la cucina giusta, per i libri da leggere, i film da vedere, la roba da mangiare. Facciamo piani per vivere meglio, per sentirci un po' più felici o un po' meno pesanti. È per essere pronti che ci prepariamo. Se arriva la chiamata giusta, se dormi fuori stanotte, se un domani cambi casa o sposti un mobile o cambi auto, sempre pronti, per tutto, per qualsiasi eventualità. Mia nonna, dopo aver compiuto 70 anni, ha sempre avuto una valigetta con il necessario per l'ospedale, nel caso in cui dovesse essere ricoverata d'urgenza. In 90 anni è stata in ospedale due sole volte, ma lei è sempre pronta. Mia nonna però dice anche che in realtà non è necessario essere pronti. Dice che quando qualcosa accade, in qualche modo, noi eravamo già pronti ad accettarla. Lei dice che c'è una parte di noi che si annoia. Che un angolo della nostra pianificata quotidianità è terribilmente desiderosa di novità. È la parte che spera che succeda qualcosa. Che si buchi una gomma, che non parta l'aereo, che il profilattico si buchi. Dice che se quella parte non ci fosse, noi alla prima modifica dei nostri piani non sapremmo come andare avanti. Invece no. Invece poi, in un modo o nell'altro, alla fine noi tiriamo sempre dritto. Sempre. Anche quando diciamo che no, che non eravamo pronti. Ecco, forse allora non essere pronti è solo una scusa. Forse lo siamo, ma non lo ammettiamo. O semplicemente quella parte che desidera la sorpresa è meno forte di quella che pianifica tutto. Io non lo so a voi per cosa non siete stati pronti o per cosa non lo siete in questo momento. Se però qualcosa c'è, beh, questa puntata è dedicata a tutti voi. E il numero è sempre quello, il numero è sempre 800240024 per le telefonate, oppure il 349-238-6666. C'è invece un profilo su Facebook che è molto semplice da usare, dovete averne uno vostro, ovviamente, e poi andate, cercate Matteo Caccia, io sono qui, quello è il profilo, si chiama fanpage, ma è la stessa roba che, di questo programma. Cliccate su mi piace, voi potete avere accesso a tutte le informazioni. E proprio su quel profilo lì, oggi un sacco di persone pare non siano state pronte, più che oggi. Oggi, insomma, negli ultimi momenti della loro vita. Andrea: non ero pronto a vedere finire una storia durata 7 anni. Paola: non ero pronta per innamorarmi. Lorenzo: alle 4.27 di una notte di febbraio si sono rotte le acque ed è nato Matteo. Mancavano ancora 2 settimane e io non ero pronto. Diego: non ero pronto per sapere che mi poteva piacere Radio 24 e invece io sono qui. Marco: dovevo andare a convivere con la mia ragazza, mancavano 2 mesi alla consegna della casa quando ho cambiato idea. Evidentemente non era pronto. 800240024 349-238-6666. Lucia: eppure anche quest'anno io mi sentivo pronta a tutto, scrive Lucia. Non lo sono stata quando l'amico con cui ho condiviso le più pantagrueliche abbuffate di carne tra Pasquetta e primi di maggio mi ha detto di essere diventata vegetariana. Non lo sono stata quando ho scoperto che il sentiero tra Monte Rosso e Vernazza non era di difficoltà lieve, come dicevano sul biglietto d'ingresso. Non lo sono stata quando ho pensato bene di darmi all'ultimo cellulare sul mercato senza sapere come togliere la connessione automatica da internet. Evidentemente non è stata pronta quando è arrivata la bolletta. E soprattutto non lo sono stata pochi minuti fa quando un'altra amica mi ha lasciato intendere di avermi fatto un regalo. Io ho scoperto di essere già il 24 dicembre senza avere comprato nulla. 80024 0024 349 238 6666. Giusto per buttarlo nel mezzo, prima a Tiziano Bonini viene venuto in mente un pezzo di Amleto che dice esattamente così. È un pezzo, non so preso da quale atto, non so dove, che dice: se ora non sarà dopo, se non sarà dopo sarà ora, se non è ora tuttavia sarà. Essere pronti è tutto. O come diceva invece Paolino Corleoni, il motto non degli alpini, degli scout, il motto degli scout è estote parati, giusto? Che significa siate pronti. Ebbene, io non ero del tutto pronto, devo dire la verità, ieri quando ho deciso, non so in preda quale strana idea, di andare a fare una sorta di cena prenatalizia a casa dei miei e di portarmi dietro la ragazza con cui esco da pochi mesi. No, non ero pronto, probabilmente non era pronta neanche lei, probabilmente non era pronto nessuno a casa mia. 80024 0024 349 238 6666. Bastano veramente 30 secondi, eh? Sarete in macchina, sarete a casa, sarete al lavoro, ovunque siate. Basta poco per farsi quattro calcoli e dirsi: no, effettivamente non ero pronto. È che gli avvenimenti a volte precipitano e non resta altro che guardarli passare, e fai perfino fatica a viverteli. Sei talmente preso dal non rovinarli che rischi di non goderteli fino in fondo. Ieri sera c'è stata la cena natalizia dei miei, una tradizione a cui tengo molto, che è una cosa bella. E quest'anno c'è il piccolo particolare che nel giro di qualche settimana io mi sono innamorato, ho conquistato la donna che amavo, lei ha scelto me rispetto al suo compagno e io ho pure il coraggio di portarla due giorni prima di Natale dai miei. Ormai ci manca solo che mi sposi prima di Capodanno e facciamo una telenovela tipo Bonsai. Sono cose che capitano veramente, è la realtà. E quindi non devo sorprendermi o scherzarci sopra. È così e basta. È solo che io vorrei riuscire a godermelo un po' di più. Non che mi manchi niente, per carità, sono felice, sono sorpreso, anzi sono quasi sorpreso di essere felice. Solo che a volte le cose vanno troppo in fretta e quindi non sei pronto. Ieri sera, per esempio, a cena dai miei, con Natalie, io non ero pronto per tutte le domande che mi avrebbero fatto. E soprattutto non ero pronto per quelle che non mi avrebbero fatto, ma che sapevo che erano nella loro testa. Insomma, ieri sera, no, non ero pronto. Ovviamente avevo con me il solito Alka-Seltzer che si conviene alle cene di Natale, che è un po' come portare il preservativo agli aperitivi a Formentera, no? Sai che dovrai usarlo. Quindi ero mezzo vaccinato. Ma avere in macchina Natalie e giocare a fare la coppia fatta e finita, quando invece due mesi fa praticamente manco ci conoscevamo, era un po' strano. Alla mia famiglia non avevo potuto nascondere che la stavo portando con me, però prima di ieri mattina non li avevo nemmeno avvertiti della sua esistenza. Sì, lo ammetto, ho fatto un po' di confusione. Insomma, mamma, porto un'amica, ho detto al telefono. Mia mamma è persona molto riservata e non ha detto nulla. Però io ero terrorizzato dall'impressione che l'avrebbe fatto. Sapete come sono le mamme, no? Sono un po' come i papà per le figlie femmine, cioè ogni fidanzato è un porco ed è un farabutto. Ecco, per mia madre ogni mia possibile compagna era sempre o una stupida ragazzina o una vecchia carampana. Mai state via di mezzo. Io mi sono detto che Natalie era splendida e che l'amavo. Ecco cosa convincerà mia madre, mi sono detto. Andrà tutto bene. È con questo spirito che ho suonato il campanello stringendo la mano di Natalie, come se avessi paura che qualcuno me la potesse portare via. Ed è stato tra gli agnolotti e il brasato che ho capito che a mia mamma Natalie non piaceva. È stato quando non le ha chiesto se voleva il bis. Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. And I don't mean a phone, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Anche nella mia famiglia il cibo è un simbolo di affetto. Più cibo, più affetto. Meno cibo, più rancore. Non facciamo eccezione. Le porzioni in tavola ieri sera erano minuscole e perfino mia sorella, scoperta a ridere e a scherzare con Natalie, ha dovuto accontentarsi di due fettine di carne tirate via dalla sua razione. Vista la situazione, ho giocato il jolly. Visto che mia madre non si può far cambiare idea, ditemi voi se siete mai riusciti a farlo. Con vostra madre, non con la mia, ovviamente. Insomma, visto che non si riesce mai a farla cambiare idea, forse potevo mostrarle per intero le mie intenzioni. Quindi ho preso dalla tasca l'anello che avevo recuperato su eBay e l'ho messo al dito di Natalie, dicendo a tutta la famiglia che avevo aspettato di essere davanti a loro per chiederle ufficialmente di fidanzarsi con me. Avere un po' tutti quanti beautiful in comune ci ha aiutato, quindi mia madre si è sciolta, mostrando perfino un velo di lacrima. Non aveva cambiato idea su Natalie, ovviamente, però mi aveva visto compiere un gesto da galantuomo e quindi ne era fiera. Così ci ha chiesto dove ci eravamo conosciuti, mentre ci versava un'abbondante dose di crema di mascarpone. E io le ho dovuto dire che tutto era cominciato con un cesso rotto. Alla fine la cena tutto sommato è andata bene. E sulla strada per il ritorno mi aspettavo di parlare un po' con Natalie delle feste e di cosa fare insieme, naturalmente. Cioè che va bene vivere la giornata, però, insomma, un minimo, no? Solo che parlando ho scoperto che lei aveva già un programma piuttosto preciso per queste feste. Solo che aveva fatto un po' di fatica a dirmelo. Aveva organizzato da tempo un viaggio in Thailandia con le sue amiche, al caldo, in un albergo su una spiaggia, di quei posti che ci si immagina quando si pensa al mare della Thailandia, con la sabbia bianca, il mare azzurro e gli occhi un po' a mandorla. Non è che voglio partire, però ormai è così, mi ha detto quella donna, cioè la donna alla quale aveva appena messo l'anello al dito. Forse ci fa anche bene, perché capiamo meglio quello che ci sta succedendo, mi ha detto. E così Natalie mi ha proposto di rimanere sempre insieme anche durante il suo viaggio, usando un diario. Lei si sarebbe appuntata ogni singola emozione, ogni avvenimento, ogni incontro, ogni paesaggio. E quindi sarebbe stata sempre con me. E io guardate che lo so, guardate, io lo so che da qualche parte c'è la fregatura. Il problema è che sono innamorato. Sono un po' malato. E lei è splendida e sorride quando mi parla e le guance le diventano rosse. Quindi alla fine decido che questa è una bella idea. E che lei non è ancora partita, io non vedo già l'ora che torni per leggere quello che le è successo. Perché questa malattia che chiamiamo amore ti fa sembrare che la vita di un'altra persona sia più importante della tua. E io non voglio guarire. Sono le 11.49 di giovedì 23 dicembre. Sono in automobile, non sono da solo. C'è con me Natalie, a cui ho promesso che non avrei chiesto niente perché non vuole parlare, quindi parlo solo io. Stiamo tornando dalla cena pre-natalizia, direi, di casa caccia. Siamo in autostrada, l'autostrada è libera, piove. Ed effettivamente credo che non fossimo pronti. Non so tu, ok, non ti chiedo niente. Io non ero pronto per il mascarpone, non ero pronto per il panettone del 23, non ero pronto per le sensazioni che si sono provate in casa. Forse non eravamo pronti in realtà proprio ad andarci a questa cena. Forse non eravamo pronti, ok. C'è qualcosa per cui tu non eri pronta, Natalie? Dai, una cosa, ma una, un gesto, niente. Non eravamo pronti, però è stata una... Poi alla fine, quando torni, ti accorgi che in qualche modo, anche se non sei pronto, un pochettino ti aggiusti, va. Continua a piovere, siamo sempre sull'autostrada, siamo all'altezza di Rho, sono le 11.50, è sempre giovedì 23 dicembre 2010. È un'ottima scelta di vita non essere pronti o preparati. L'incanto continuo del disincantarsi. Buon Natale Matteo, ciao Filippo. Insegno pianificazione ma non sono mai pronto. Pianificazione di che cosa esattamente? Andrea, non ero pronto a sentirmi dire da un dottore che mio padre se ne sarebbe andato entro 10 giorni a causa del ricomparire della sua malattia. Il 6 luglio del 2007 sono nate le mie magnifiche 3 gemelle, Giulia, Chiara ed Emma. Non ero pronto, Fabio. Io non ero pronto per tutto. cosa che è accaduta ed accade ancora. Se ci dici cos'è tutto, però magari ci capiamo un po' di più. Si dice ciampornia, ma che cosa si dice? Cioè, è arrivato un messaggio che dice si dice ciampornia. Ha sbagliato radio probabilmente. Guarda, doveva essere o RTL o Rete 105, secondo me, che sono proprio le tipiche radio che attorno alla vigilia di Natale parlano di ciampornia. Non ero pronto quando il 30 di gennaio scorso mia figlia è venuta a vivere da me scappando dalla madre, e 2 ore dopo mi è venuto l'infarto. Andrea, però mazza, tutto in una botta ti è venuto. Per forza non eri pronto. 800 24 00 24, 349 238 6666. Allora, ce l'ho un po' di tempo. Sì, volevo leggere un paio di mail che sono arrivate su questo tema. Sì, tanto non c'è la borsa oggi, quindi... Com'è non c'è la borsa, però? Io, sai che ogni giorno sono lì che mi chiedo, ma il Mibtel, il Nasdaq... Vabbè, niente, per oggi niente borsa. Fabio mi ha scritto questa mail. Sono Fabio, classe 84, Veneto, ingegnere gestionale. E sono qui, ma ancora per poco. Attualmente lavoro nell'azienda di famiglia, cresciuta con sacrificio e condotta con passione da mio padre. Perito elettronico, come non ne fanno più di padri e di periti elettronici, immagino. Prima di entrare in azienda ho vissuto un'esperienza molto positiva altrove, eccetera, eccetera. Però insomma lui lavora ancora col padre. Nel frattempo sono cresciuto con al mio fianco quella che a me pare la migliore ragazza immaginabile, sotto ogni santo punto di vista. Comprata casa, la stiamo arredando, il sogno è quello di andarci a vivere da marito e moglie. Siamo un po' retro, me ne rendo conto, ma ci piace così. A settembre, quindi in questo scenario, a settembre arriva una chiamata da una delle prime aziende in Italia, credo nel settore di cui si occupa Fabio. Dove sono? Arriva una chiamata, sono andato a parlarci per curiosità, solito colloquio, eccetera, eccetera. Passati 10 giorni, sono in Francia e mi richiamano per dirmi che i dirigenti di area vorrebbero vedermi. Vado, faccio l'incontro, torno a casa in attesa della chiamata, ci penso e mi stupisco di come per la prima volta un tarlo si sia insinuato nella mia mente, facendo forse barcollare quello che da tempo era il mio futuro delineato. La chiamata arriva, è una proposta di assunzione a tempo indeterminato, con tanto di spese pagate per il trasferimento in un'altra città, casa compresa. Ho dovuto affrontare la scelta più impegnativa della mia breve e, se vogliamo, comoda e fortunata vita. Cambiare città, allontanarmi dal mio ufficio, da lei, che dopo 7 anni vissuti quasi da vicini, piomberebbe improvvisamente a 350 km di distanza. Dalla mia casetta, dalla mia squadra di calcio, dalla mia città. Chi me lo fa fare? A che pro? Comunque ho deciso, da gennaio parto, lavorerò lontano, crescerò al giusto, se tanto mi dà tanto mi legherò ancora più indissolubilmente a ciò che fino ad oggi è stato il mio tutto. Arrenderò ancora casa e conto di riempirla con una moglie e qualche pargolo, più prima che poi. Pensandoci, forse ha ragione tua nonna, forse non sento di essere pronto, ma una parte di me sa di esserlo, o almeno ci spera. Meglio andare a provare, meglio provare a riuscirci. Sì, lei mi mancherà, ma non si possono temere queste cose, non a 26 anni. E poi a gennaio abbiamo il corso da fidanzati, di venerdì sera, ovviamente di ritorno dal lavoro. Sembra una scelta facile a molti, per me no, è stata una scelta maturata duramente, forse la scelta giusta. Oggi sono qui e tra poco sarò altrove, quasi pronto per andarci. Fabio. Bravo Fabio. E poi mi è arrivata invece quest'altra mail, mi è arrivata sempre sul profilo Facebook, è di Francesca e fa così. Quando ero in Erasmus a Londra ho partecipato ad una selezione kamikaze per un musical del college. Siamo partite in 3 senza aver assolutamente mai avuto uno straccio di esperienza sul campo, ma fiduciose che essendo andata alla grande la nostra prima settimana di studio all'estero, la seconda non poteva che doppiare il successo. Alle audizioni di danza sembravamo 3 cammelli zoppi, ma in realtà nella folla non ti accorgi troppo di essere una nota terribilmente dissonante. Per cui ci siamo presentati pure alle audizioni di canto. Dovevamo intonare esattamente 5 righe di Summertime, imparate frettolosamente in corridoio. Sono entrato in questa grande stanza vuota con un pianoforte a lato e 4 persone che attendevano il mio là. Non ero pronta, era chiaro come il sole. Sono rimasta paralizzata sui primi 3 attacchi del piano e poi ho chiocciato un Summertime da infrangere i vetri anche a Camden. Non ero pronta e onestamente non lo sarò mai. La sede è diventata immensamente grossa. La cosa divertente è che quelle 5 righe mi tornano costantemente in mente nei momenti più impensabili. Vigilia di Natale, ci sono poco più di 5 gradi qua fuori, ma dentro di noi è un po' estate. Non c'è la borsa, ma dopo una piccola pausa io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Yo estoy aquí. Nella foto di oggi, 24 di dicembre, siamo al tramonto. Ci sono delle montagne in fondo, forse sono nuvole. No, sono delle montagne, forse più delle colline. In primo piano c'è una striscia di terra nera e delle piante completamente prive di foglie, quindi è chiaramente inverno, è qualche giorno fa. Su tutto però c'è una luce che è la tipica luce che pensiamo quando pensiamo al tramonto. Ci sono nuvole che striano il cielo, un arancione che quasi stringe il cuore e non ho proprio idea di dove siamo però. Elide Bresciano, 54 anni, sono in provincia di Cuneo e il tramonto che vedete è vicino al Monviso e quando esco dall'ufficio io vado a vedermi il tramonto e ascolto la tua trasmissione. Io sono qui. E quando ascoltate la trasmissione c'è già questa luce qua? Finiamo tardi, direi, o forse d'inverno, effettivamente, alle 5 meno un quarto. C'è già quel tramonto. 800240024. Se è ora non sarà dopo, se non sarà dopo sarà ora, se non è ora tuttavia sarà. Essere pronti è tutto. Così ogni tanto citiamo Amleto così proprio a mo' di strafottenza. Non ero pronto ad accorgermi di essere adulto. Credevo ancora di essere uno spensierato adolescente con tanta voglia di conoscere il mondo. Paride, di solito succede da un giorno all'altro, paride. Ciao, io non sono mai pronto. Se la vita aspettasse me, il tempo si fermerebbe. Livio. Dopo 7 anni di matrimonio e una bambina, mia moglie mi ha lasciato. Pensavo di essere pronto, a quel punto solo a riprendermi la vita. A quel punto a riprendere la vita da solo, credo, volesse scrivere. E invece ho conosciuto una ragazza e non ero pronto. Dopo 3 anni che stiamo insieme, abbiamo 2 bambine. Voilà! Prima invece mi è arrivato questo messaggio che diceva: Marta, quest'anno non ero pronta per fare la domanda Erasmus, però l'ho fatta, l'ho vinta e tra un mese parto per Parigi, senza che me ne sia quasi resa conto. Pronto Marta? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Te? Sei un po' agitata, Marta? Un pochino, sì. Di dove sei, Marta? Di Roma. E dove vai? L'Erasmus a Parigi, cos'è che studi? Studio filosofia. Ma a che anno sei? Sto al secondo della specialistica. Però non ho capito una cosa, tu hai fatto la domanda per andare in Erasmus, però non hai voglia di farlo? No, non è che non ho voglia. Diciamo che quando è uscito il bando, ho cominciato tutte le pratiche burocratiche e mi hanno preso talmente tanto che neanche mi sono resa conto di cosa stavo chiedendo. Adesso mi trovo che tra un mese parto e non mi sento tanto pronta. C'è tanta voglia di andare, però... Senti, il problema è che lasci qualcosa qui. Anche, sì. Cos'è che lasci qui? Il tuo fidanzato? Sì. Ma stai mandando dei messaggi nel frattempo? Vuole. Sento dei rumori di sottofondo. Da quanto sei col tuo fidanzato? No. 4 anni e mezzo. Ah, ok, vabbè, quindi ha voglia. Siete più che... Siete più che scafati. Siamo collaudati. Quanto dura l'Erasmus? Sì. 6 mesi, un anno? Dura 6 mesi, sì, dura 6 mesi. E quanti esami conti di fare? No, vabbè, gli esami non ci sto proprio pensando. Come non ci stai pensando? Scusa, tu di solito si danno degli esami all'estero, no? Sì, ma io vado lì in realtà per imparare la lingua fondamentalmente. Ah, ok, va bene. Che mi serva per i miei studi. Senti, non sei pronta, però hai preparato qualcosa, ce l'hai la casa, ce l'hai un posto dove stare... Il punto è questo, che al di là dell'aspetto emotivo, anche a livello pratico, non ho ancora una casa e col francese vado così così. Senti Marta, però ho la sensazione che tu, che più che andare a Parigi stia partendo per il Vietnam, non è così, no, non è così tosta, alla fine vai a Parigi. Infatti tutti mi dicono che sembro molto angosciata. Sì, guarda, ma lo sembri decisamente. Mi piace, in realtà sono anche contenta. Marta, stai bene, passa un buon Natale e fai un buon viaggio quando vai, quando parti per Parigi. Ciao, grazie. Ciao. Un grosso in bocca al lupo a Fabio, che è quello che parte per il lavoro e lascia la sua fidanzata, cioè lascia la sua fidanzata, la tiene lontana. Non ero pronta quando ho scoperto che la mia adorata cagnolina aveva un grande male incurabile. Ho dovuto decidere di farla addormentare tra le mie braccia per sempre. Dalia, questo messaggio è particolarmente azzeccato, perché più tardi voglio leggervi un pezzo di un libro che riguarda proprio questo, riguarda l'essere pronti a un avvenimento come quello, riguarda proprio la storia di un cane. Andiamo da Napoli, buonanotte, da Luigi a Napoli. Pronto Luigi? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Io ascoltatori, bene, bene. Tu cosa fai a Napoli, Luigi? Guarda, io praticamente ora sono qui per passare le festività con la famiglia, perché di base studio fuori Napoli e quindi è diventata la mia oasi di divertimento, che prima era la mia vita quotidiana praticamente. Dove studi e cosa studi? Io studio a Roma e studio legge. A che anno sei? Sono al terzo anno, quasi al quarto, iniziamo al quarto. Senti Luigi, tu hai partecipato agli scioperi, alle proteste di questi giorni, oppure te ne tieni lontano, non sei d'accordo? Allora, io sono perfettamente d'accordo con i motivi di dissenso che hanno portato gli studenti a scendere in piazza, dissento quando si attuano delle forme di violenza come quelle che abbiamo visto immortalate, ma diciamo io partecipo con altri modi, forse meno giovanili, insomma scrivo per alcuni blog, non scendo direttamente in piazza, faccio la mia voce dove mi è possibile attraverso la rete, attraverso dei commenti ai post, attraverso delle collaborazioni con dei giornali. Per cui... Senti Luigi, invece dimmi tu perché cosa non eri pronto? Guarda, io non è che non ero pronto, io non sono ancora pronto praticamente ad arrendermi alle cose, io sono ancora attaccato a quell'infantilismo per il quale tutto ciò che non mi piace lo posso modificare, così come quei bambini che magari vedono che la loro squadra sta perdendo 4-0 al 90esimo sperano ancora di poter rimontare il risultato. Vabbè, ma tu sei tifoso napoletano? Beh, allora, perdonami, in quanto a montare e rimontare il risultato in questi ultimi giorni, direi che voi state proprio tranquilli, visto che avete fatto il gol sempre nei minuti di recupero. Diciamo che siamo una particolarità del campionato, almeno c'è anche chi ci viene in simpatia per questo motivo, abbiamo qualche tifoso in più nei sognatori, stiamo dando speranza. Sì, cioè, a tutta l'Italia, Luigi. Senti, ti ringrazio moltissimo, ti auguro un buon Natale. Ciao, Matteo. Ciao, stai bene, grazie. Dopo aver dedicato gran parte della mia vita al lavoro, dopo aver visto tutti i matrimoni falliti dei miei amici, ho capito che ho fatto la scelta giusta. Quindi evidentemente non era pronto. Un grosso in bocca al lupo a Fabio, anche un altro messaggio. Marta scrive: dopo 27 anni non sono ancora pronta ad accettare di somigliare a mio padre. Marta, un'altra Marta: stamattina sono passata in banca per fare gli auguri di buon Natale ad un amico. Entro e al suo posto trovo un altro. L'hanno trasferito con pochissimo preavviso ed io non era pronta. 80024 0024 349 238 6666. Io vorrei arrivare adesso a leggervi un pezzo che era quello di cui parlavo prima. Che riguarda proprio la difficoltà di trovarsi pronti in alcuni momenti. Il libro si intitola Vergogna. L'autore si chiama Cozze o Cozzi ed è un autore che ha vinto, credo, un premio Nobel nei primi del 2000. È un autore sudafricano. Lui ha scritto questo libro che parla di quest'uomo che si trova ad affrontare un momento di grande difficoltà e ha a che fare proprio con la vergogna. Dopo, insomma, un travaglio che non vi sto a raccontare perché non è la parte fondamentale, lui si trasferisce in campagna e va a vivere con la propria figlia e capisce quanto appunto non sia pronto di affrontare una figlia che è cresciuta e quanto si senta inadatto al mondo e alla vita che sta vivendo. Trova però un piccolo cane, che è un cane zoppo, con cui diventa amico. Lo incontra perché ha una relazione con una veterinaria che di fatto un giorno alla settimana lo dedica a sopprimere i cani, che sono cani randagi. È di nuovo domenica. David e Bev sono impegnati in una delle loro sessioni di losung, così lo chiamano. David porta dentro gli animali uno ad uno, prima i gatti, poi i cani. I vecchi, i ciechi, gli zoppi, gli storpi, i mutilati, ma anche i giovani e i sani. Tutti quelli per cui è suonata l'ora. E ogni volta Bev li accarezza, li conforta, parla con loro e poi li sopprime. Fa un passo indietro e sta a guardare mentre lui li chiude in un sudario di plastica nera. Legato l'ultimo sacco lo trascina fino alla porta. 23. Non resta che il cane storpio, quello che ama la musica. L'unico che, se ne avesse la possibilità, correrebbe dietro ai suoi compagni nell'edificio della clinica, nella sala operatoria con il tavolo di lamiera zincata, dove aleggia un ricco miscuglio di odori, compreso quello che Zampa Secca non ha mai sentito, l'odore dell'esalazione, il tenue, breve odore dell'anima liberata dal corpo. Ciò che il cane non riuscirà mai a capire, ciò che il suo naso non saprà spiegargli, è come sia possibile entrare in una stanza all'apparenza normale e non uscirne più. In quella stanza succede qualcosa di innominabile. L'anima viene strappata dal corpo, resta per un attimo sospesa nell'aria, si torce, si deforma e poi viene risucchiata e sparisce. David potrebbe risparmiare il cane storpio per un'altra settimana, ma verrà il momento, inevitabile, in cui dovrà portarlo da Bev in sala operatoria, in cui dovrà accarezzarlo e tirare indietro il pelo perché l'ago trovi la vena, per poi bisbigliargli nell'orecchio qualche parola, confortarlo nel momento in cui, inaspettatamente, le zampe gli cederanno. David apre la porta, apre poi quella della gabbia, si china, guarda il cane, gli dice «Vieni», apre le braccia. Il cane scuote il di dietro sciancato, gli annusa la faccia, gli lecca le guance, le labbra, le orecchie. David lo lascia fare. «Vieni». Portandolo tra le braccia come un agnello, ritorna nell'ambulatorio. Bev lo guarda e gli dice «Pensavo che volessi risparmiarlo per un'altra settimana. Hai deciso di abbandonarlo al suo destino?» «Sì», risponde David. «È pronto. Lo abbandono al suo destino». Mi rendo conto che non è un racconto molto natalizio, forse non lo è per niente, però sono le ultime due pagine di questo libro che si chiama Vergogna. Non ve lo consiglio nemmeno come libro da regalare, perché veramente non... uno regala i libri che vuole e i libri che gli sembrano giusti, però quando l'altro giorno pensavo proprio a quella serata, alla serata di ieri sera, e pensavo al fatto di essere o non essere pronti a fare qualcosa, non so come mi sono venute in mente queste due pagine che hanno a che fare proprio con un momento fondamentale, che anche se è semplicemente quello di un cane è un momento importante. 800240024, sentiamo ancora qualche telefonata prima di chiudere la puntata di oggi. Andiamo a Roma da Fabio. Pronto? Ciao, salve. Ciao, come stai Fabio? Tutto benissimo. Senti, raccontami la tua storia. Sì, no, io ho mandato un SMS una mezz'oretta fa e mi avete richiamato, perché per me, diciamo, quando l'inizio della vostra frase, il non era pronto, a cui noi dovevamo dare seguito, mi è venuto chiaramente subito in mente l'esperienza forte che ho provato anni fa durante la guerra in Bosnia, che io ero ancora un ragazzetto praticamente. E che ci facevi? Come sei andato in Bosnia? Ho voluto partecipare a un convoglio umanitario durante la guerra, diciamo che doveva essere esclusivamente trasportare con dei pacchi di una nota marca di pasta italiana. Uh-huh. E c'erano stati fatti dei pacchi con all'interno del sangue che dovevamo portare a Mostar. Scusami, non ho capito, non ho capito, perdonami Fabio, nei pacchi c'era del sangue? Sì, dei sacchi di sangue. Che, ma del plasma per... Bravissimo. Ok, per delle trasfusioni. Ben nascosti per poterli portare all'ospedale di Mostar, dove c'erano delle situazioni disagiate, e praticamente mi sono ritrovato nel ben mezzo di una situazione irraccontabile, perché appunto c'è stato il bombardamento del ponte di Mostar dopo circa 40 minuti che siamo passati noi. Che giorno era Fabio esattamente, ce lo ricordi? Guarda, non mi chiedere nulla, io ti dico solo, Matteo, che io sono ritornato a Roma, sono stato 3 mesi rinchiuso in un seminario per ricostituirmi proprio psicologicamente. E però lo sai, io lo racconto adesso non perché appena raccontato la storia tristissima dei cani, io non voglio fare un intervento triste, l'intervento al contrario, volevo fare un intervento invece dove io ho avuto questa opportunità di vivere un'esperienza forte, drammatica, che però mi ha sicuramente dato qualcosa che nessuno potrà mai togliermi, cioè l'essenza di quello che noi facciamo nel quotidiano. Tu che cosa fai nella vita adesso, Fabio? Io sono un funzionario di un ente pubblico. Si può dire di quale oppure? Preferiresti di no, se mi sembra di capire. Sì, dai, diciamo di no. Sono un funzionario di ente pubblico e comunque mi occupo, cioè il mio lavoro con cui prendo lo stipendio che porto a casa, anche una famiglia con due splendide bambine, è questo. Però la mia vita è sempre comunque dedicata. Perché mi occupo di cooperazione sociale, di disagio minorile, chiaramente questa esperienza mi ha segnato. Immagino. Tutta la vita. Senti Fabio, quanti anni hai? 39. E così, a naso, se uno ti dovesse chiedere ti senti pronto, tu cosa risponderesti? Adesso ti dico di sì, Matteo. Fabio, grazie mille, in bocca al lupo, grazie, e buon Natale. Sì, grazie, guarda, è una bellissima trasmissione. Io sento sempre Radio 24. La tua trasmissione ha qualcosa in più, perché non è la solita trasmissione che si sente radiofonica. Basta, grazie Fabio, grazie mille, una buon Natale. Ciao, grazie. Grazie a lui. Io voglio ringraziare in questa puntata prima di Natale, se non ve ne eravate accorti, oggi è la vigilia, tutti quelli che hanno fatto questo programma, l'ho già fatto ma continuerò a farlo, che sono Tiziano Bonini, che sta alla regia, sceglie le musiche e carica i podcast sul profilo Facebook, Paolino Corleoni, che non sempre con noi ma praticamente sì, ed è quello che gestisce tutta la coreografia musicale di questo programma, Stefano D'Andrea, che scrive insieme a me a questo programma, Vittoria Mussini, che ha passato a miglior vita ma sta bene, pare che stia molto bene. Vorrei ringraziare anche Alessandro Genovesi, che è stato con noi e che comunque con noi rimane. Le prossime puntate sono delle puntate speciali, proprio perché, visto che è nata questa storia del diario di viaggio che Natalì mi ha promesso, le puntate della settimana prossima sono tutte dedicate ai diari di viaggio. Io, prima di salutarvi, vorrei leggervi gli ultimi messaggi che sono arrivati, che dicono: oggi non ero pronto alla carta di credito bloccata e i regali da comprare, Giovanni da Città di Castello, ma soprattutto Paolo che mi scrive: se non sei pronto, improvvisa. A volte funziona. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?